senti, e da proprio da qui voglio partire. Vi porto il suo saluto. Purtroppo è bloccata a letto dal mal di schiena, fino all'ultimo ha sperato di poter essere presente e a questa iniziativa a cui tanto si era preparata, e però purtroppo appunto è impossibilitata. E vi porta quindi il suo saluto, e stamattina l'ho incontrata e mi ha passato la presentazione che avrebbe usata per presentarmi questa iniziativa. È qui, io impropriamente e indegnamente cercherò di farmi portavoce del suo studio, della sua ricerca. E vi saluta, quindi in qualche modo voglio pensare che sia qui ad accompagnarci. E purtroppo questo suo malessere mette anche in seria discussione la possibilità che la passeggiata di sabato possa essere svolta, e vi invitiamo, qualora aveste avuto intenzione di partecipare, di provare a connettervi domani al sito del Cristallo. Entro mezzogiorno daremo informazioni sulla se la passeggiata si terrà o meno, o qualora non abbiate un accesso a internet potete tranquillamente chiamare il teatro e sicuramente ve lo sapremo dire domani prima di mezzogiorno. E qualora la passeggiata venga infine annullata, senz'altro la recupereremo in una data successiva, potrebbe essere sabato 10 ottobre. Comunque vi daremo prontamente informazioni. E comunque questa sera siamo qui a raccontarvi un po' tutta tua la città 2015. E questa serata, che come Patrick ha detto tradizionalmente si svolge in collaborazione con la Biblioteca Provinciale, e vuole essere senz'altro una presentazione della passeggiata che si terrà, ma vuole essere anche un'occasione dedicata a scoprire qualcosa che Gioco Forza durante la passeggiata non può essere visto, uno sguardo nel passato. Durante la passeggiata ci vedremo questi luoghi così come sono ora, e la nostra Paola invece ha scovato per noi delle belle vedute di questi stessi luoghi così come sono stati nel corso dei secoli. Ed è proprio questo che vogliamo fare, quindi aggiungere qualcosa a questa occasione di scoperta. E tutta quella città è un'iniziativa che quest'anno arriva alla sua quarta edizione, e nasce da un'intuizione del Comitato Culturale del Cristallo, secondo la quale la costruzione dei processi identitari che ciascuno di noi segue non può prescindere dai luoghi che abitiamo. E luoghi che però arriviamo ad amare davvero, e cui riusciamo ad appartenere in modo pieno solo se veramente li conosciamo. E così con il Comitato Culturale del Cristallo abbiamo voluto avviare queste passeggiate guidate all'interno della città per scoprire angoli forse già noti, ma forse mai compresi, e forse sui quali mai davvero ci siamo interrogati. La convinzione è che solo chi conosce davvero infine ama e appartiene. E così nel primo anno abbiamo camminato tra i quartieri Don Bosco e Europa Novacella, e poi in un'ideale prosecuzione nella seconda edizione abbiamo camminato tra via di Trieste e via Venezia. L'anno scorso, terza edizione, siamo scesi da Ponte Tower al museo, e quest'anno vogliamo percorrere un nuovo tratto di città tangente al centro storico, il tratto breve, in realtà, quest'anno, tra la via Wittgenstein e la via Lauri. È questo forse il ritratto di una città minore, perché affianca edifici di spicco, quale la Chiesa dell'Ordine Teutonico, il Palazzo di Massimiliano, che oggi ospita il Museo di Scienze Naturali di Diego Tali, e l'Hotel Lauri, una stazione, anche delle vie in qualche modo che nate come vie di servizio, e penso soprattutto alla via Crapoli, alla via Bottai. Comunque, proviamo ad addentrarci. E la chiesa di San Giorgio in Bethesda, in ordine teutonico, l'inizio della nostra passeggiata di sabato. E l'ordine teutonico è a Bolzano dal 1203, quindi da un lunghissimo periodo, e ininterrottamente ha abitato e ha fino ad oggi tuttora la città di Bolzano. Il primo insediamento dell'ordine teutonico in realtà però non è quello dove oggi lo troviamo, ma si trovava alle pendici del Virgolo, e si trovava un ospizio, una chiesa che l'ordine fu costretto ad abbandonare a causa delle continue esortazioni del fiume. E così nel 1392 l'ordine teutonico si trasferì lì dove lo troviamo ora, in cima alla via, in via del Pescani. E piace pensare e collegarci alla prima edizione di questo stesso percorso, tutta la città del 2012, che partì da Santa Maria in Augia, dalle rovine di Santa Maria in Augia, che ci raccontano la stessa storia, la storia di un ordine che si insediò in un monastero e che dovette abbandonare. Infatti oggi di Santa Maria in Augia abbiamo solo delle rovine all'interno del parco delle Semirurali, per spostarsi nella chiesa di Gries. Quindi la struttura della chiesa è della fine del XIV secolo, anche se l'interno è frutto di rimaneggiamenti successivi del Settecento. In particolare l'altare è finemente cesellato, è un capolavoro barocco, con la pala di Martin Knoller. È una chiesa particolarmente nascosta, nonostante che stia in centro, e anche parlandone tra noi ci siamo resi conto che forse anche nella sua denominazione San Giorgio in Wittgenstein non è proprio conosciuta da tutti, e quindi ci piacerà iniziare la nostra passeggiata all'interno di questo piccolo scrigno prezioso della nostra città. E questa è la torre che caratterizza un po', è un po' il marchio, il simbolo dell'insediamento dell'ordine teutonico. E subito dopo una cartolina storica 1910 che ci presenta l'intero complesso così come era 100 anni fa. In realtà la torre fu bombardata durante la seconda guerra mondiale e poi ricostruita. Scenderemo poi lungo la via Bottai. Come dicevo prima, la via Bottai è una via di servizio. I portici nacquero come la via propriamente commerciale, la via dove si vendeva, e attorno a questa stessa via si svilupparono delle vie di servizio dove venivano praticate le professioni artigiane, e in questa via in particolare trovavano spazio locande, alberghi. E questa denominazione è rimasta. E ancora oggi in questa stessa via trovano posto delle locande storiche. È una via che risale al 200 e originariamente l'unico collegamento della città di Bolzano verso nord, e quindi un ruolo strategico. Qui vediamo in questa slide vediamo il cavallino bianco così come si presentava nel 1910 con la facciata affrescata. Sono tutti affreschi che si sono mantenuti, adesso ci arriviamo. Questo è il Museo di Scienze Naturali, il Palazzo di Massimiliano, ed ecco qua un'altra veduta storica del cavallino bianco nel 1930. Ed ecco qui la sua insegna. Le insegne di questa via sono particolarmente pregevoli e raccontano davvero un pezzo della nostra città. Ce ne sono parecchie, le vedremo durante la nostra camminata. Una è questa, l'insegna del cavallino bianco, c'è poi l'insegna del cappello di ferro, del pavone e anche di un fabbro. Ed ecco qui la facciata del cavallino bianco come è oggi, con questi affreschi di Stolz del 1912. Scenderemo poi lungo la via Bottai fino a piazza Municipio e ci soffermeremo davanti all'Erker di Casamon, scendendo da via Bottai, la si trova sulla sinistra, e ci racconta un pezzo della storia di questo affresco, ci racconta un pezzo di storia di questa piazza. E la piazza in realtà è recente, risale ai primi del Novecento e fu ricavata su quello che era la sede di un'antica chiesina, la chiesa dello Spirito Santo, che è qui ricordata in questo affresco. Vedete la raffigurazione della Trinità sulle tre facciate dell'Erker e sotto la chiesa dello Spirito Santo, che non è una raffigurazione veritiera, è un'antica chiesina del 300. E ecco qui il Torbau, il passaggio Amon, e questo racconta una storia interessante. Fu aperto nel 1911 a sancire l'unione dei comuni di Bolzano e Dolcivile. Originariamente questo palazzo era chiuso e poi a celebrare questa unione e a renderla veramente percorribile fu creato questo passaggio che univa queste due zone delle due città divise, ora una città. Ecco qui come si presentava la piazza prima dell'apertura dell'arco. L'arco si è aperto ora tra questi due erker antichi che vediamo qui. Il municipio di Bolzano, eccolo qui, opera degli architetti civici Oeder e Kirchner nel 1908, proprio sulla dove oggi sorge il municipio, sorgeva appunto la chiesina che abbiamo visto prima raffigurata. Ed ecco qui anche il ristorante Zum Anker, che anche si trovava proprio dentro la piazza, abbattuto per creare la piazza. Scenderemo poi lungo la via Grappoli, in realtà pesantemente danneggiata durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, e poi è costruita. Ci piace soffermarci su un edificio che purtroppo non esiste più e che però ci racconta un pezzo di questa città. È curioso osservare come se la via Bottai era sede di locande storiche, di piccoli alberghi, in realtà questa seconda parte della passeggiata ci permette di passare a fianco a importantissimi alberghi, a grandi alberghi sorti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, che ci raccontano uno sviluppo turistico della città dovuto all'arrivo della ferrovia Verona-Brennero a Bolzano nel 1859. E uno di questi alberghi, che purtroppo appunto oggi non c'è più, era l'Hotel Bristol, che si trovava in fondo alla via Grappoli, dove oggi c'è il negozio di come? Il Kunter, quello di vestiti da lavoro. Sì, ecco quello. Un bellissimo edificio storicista, nato alla fine dell'Ottocento, che ha una storia interessante, purtroppo breve, non fu abbattuto dalle bombe che tanto così pesantemente colpirono Bolzano, ma in realtà da scelte urbanistiche degli anni 70. L'hotel fu raso al suolo e ora al suo posto trovano spazio diversi edifici che però insomma ci hanno fatto perdere un po' il fascino di questa Bolzano ottocentesca. L'albergo aveva anche un suo giardino che si trovava immediatamente di fronte, e in questa cartolina lo possiamo vedere, è lì dove oggi c'è la Casa Raiffeisen, i posti delle bici. Eccolo qui, un'altra veduta del 1909, in stile storicista eclettico. Eccolo qui ancora, così come non si vedeva dalla stazione, dal parco della stazione, i suoi interni in stile Liberty, purtroppo qui tutti perduti, e di nuovo il giardino, la hall con questa scalinata elegante. E di questo, di pochi anni successivo, però ancora intatto nella sua imponenza, nella sua bellezza, l'Hotel Laurin. Negli anni 10 del secolo del XX secolo è tuttora attivo, e forse l'albergo più importante della città. Anche questo costruito in stile storicista. Avremo la fortuna nella nostra ultima tappa della passeggiata di poterci entrare e di sedere all'interno del caffè. Eccolo qui, in una veduta storica del 1915, quindi appena costruito. Questa è il particolare di un affresco nella lunetta che conduce al caffè dell'hotel, forse qualcuno l'ha notata. All'interno c'è tutto un fregio che ci racconta la storia di Re Laurino. Questo è un particolare, sabato durante la passeggiata ci racconterà questa leggenda notissima che tanto è cara ai Gonzalini, che in qualche modo li definisce. E ce la racconterà Donna Maria del Lago Veneri. Scenderemo poi verso la stazione, e questo è il palazzo Wildmann, in una veduta forse un po' insolita. La veduta che tutti conosciamo è quella dalla fontana di Re Laurino, è il palazzo provinciale in cui ha sede il governo provinciale, e in realtà la facciata appunto che tutti conosciamo non è la facciata originaria, perché questo palazzo costruito nel 1885 dall'architetto Altman e per una famiglia borghese che aveva che viveva qui in città, e in realtà si presentava in origine in una forma molto più ridotta, e lo dobbiamo immaginare terminante al termine di questa balconata. Questa è la via che porta verso la Haus der Kultur, per intenderci. E la sua facciata principale dunque non era quella verso la piazzetta, bensì quella che si affaccia sulla via Lauri. L'edificio poi è stato rimaneggiato ed ora è appunto una cubatura molto maggiore. Piace ricordare che Altman, architetto civico della seconda metà dell'Ottocento, a cui dobbiamo lo sviluppo in questa parte del secolo della città di Bolzano, in qualche modo già lo abbiamo incontrato per chi ha partecipato alla passeggiata lungo la via Cassa di Risparmio, perché molti degli edifici che sorgono lì sono stati da lui progettati. Ecco qui, questo il Restaurant Parkschlössl, che si trovava proprio dove oggi sorge il Palazzo Wildmann. Ed eccoci qui sull'altro lato della, del palazzo, sulla particolare della fontana di Re Laurino del 1907, quindi di nuovo Re Laurino che incontreremo all'interno dell'Hotel Lauri, ma che anche qui lo troviamo in questa scultura del 1907 che non è nella sua collocazione originaria, che invece era sul lungo Talvera, da cui poi è stato spostato e ricollocato. Eccolo qui di nuovo il monumento, in una folla di bolzanini a passeggio. Scenderemo poi fino alla Fontana delle Rane del 1939 di Gerd Lohner, che si trova sulla sede dell'antica casa del Dazio, che vediamo qui in una raffigurazione del 1930, fu poi abbattuta per far posto appunto alla fontana. Perché una casa del Dazio? Perché appunto qui ci trovavamo sul confine amministrativo tra i due comuni, Bolzano e Belciville, e quindi per questo qui aveva senso una casa del Dazio. Ed ecco la stazione, così come la conosciamo oggi, nel suo impianto di architettura del ventennio, progettata da Giorgio Mazzoni nel 1928. In realtà la stazione in questa stessa sede già sorgeva dal 1860, così come concepita da Sebastian Altman, di nuovo l'architetto di Palazzo Wittmann. Fu poi appunto abbattuta nel corso degli anni 20 per far posto alla nuova stazione fascista. E di questa stazione ottocentesca rimane comunque qualche traccia, in particolare sulla pensilina tra il secondo e il terzo binario, in ferro battuto, risale proprio a questa prima stazione. Se posso rispondere, voglio dire. Sì, perché mi è sembrato di vedere che ci fosse davanti, ecco, questo non è l'arco organizzato, è stato spostato dopo. O sbaglio io. Dov'è? Mi sembra che questo sia un ponte sotto. No, no, no, no, no, no. L'arco è sempre passato sulla posizione arretrata rispetto a. Eccolo qui, la stazione con la strada in terra battuta, di nuovo una veduta storica, carrozze davanti alla stazione che ci trasportano in atmosfere lontane, ottocentesche. Davanti alla stazione sorgeva poi nella sede oggi del palazzo provinciale più moderno un altro hotel, un grandissimo hotel, dal Victoria, pesantemente bombardato nel corso della seconda guerra mondiale e infine demolito. Lo vediamo qui in una cartolina del 1914. Eccolo ancora qui. E infine l'antico teatro, il Teatro Civico Verdi, di cui rimangono solo poche tracce, un teatro che purtroppo ebbe una vita brevissima, inaugurato nel 1918 e distrutto già durante la seconda guerra mondiale, quindi attivo poco più di 20 anni, spiace pensare come il periodo di attività fu tanto breve raffrontato con il lungo periodo in cui la città dovette attendere la costruzione del nuovo Teatro Verdi, che fu inaugurato solo nel 1999, quindi più di 50 anni senza un grande teatro, un grande teatro cittadino, a fronte di solo poco più di 20 anni di attività. tra il 1918 e gli anni 40. Comunque non l'hanno chiamato il Teatro Verdi, non l'hanno voluto. Sì, non è stato chiamato. Eccolo qui, comunque nella, in questo schizzo, durante i lavori di costruzione, quando ero ormai era già quasi ultimato nel 1918, e una veduta del suo interno con un'impostazione molto classica, con i palchi e la platea. Ed eccolo qui infine al termine della sua storia nel 1945, pesantemente bombardato e poi di lì a breve demolito. Eccolo qui, la nostra passeggiata quindi si concluderà presso l'hotel Lauri, dove potremo bere qualcosa, ascoltare un po' di musica e ascoltare un pezzo di questa leggenda. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione, scusarmi ancora per l'assenza di Paola Bassetti che ho indegnamente sostituita.